ricerca dall'amore quello che non gli può dare, chi non sa neppure che cos'è. Noi che siamo innamorati, noi abbiamo già capito che per essere felici a volte basterà una granita di limone, darsi un bacio sul portone e restare vicini anche se pioverà. Una granita di limone, io e te sotto la luna, ogni giorno che spunta il sole trovati. Quel che tu vorresti avere è nascosto nel tuo cuore, forse un giorno tu lo capirai. Noi che siamo fortunati, noi abbiamo già capito che per essere felici a volte basterà una granita di limone, darsi un bacio sul portone e restare vicini anche se pioverà.